I sogni son desideri, di felicità. E vissero felici e contenti. Questa favola inizia dalla fine, perché il finale è l'avvio di una rivoluzione. Succede nella Vera principessa sul pisello, rivisitazione della fiaba di Andersen pubblicata da Orecchio Acerbo e scritta da Octavia Monaco. La fanciulla che si accorge del pisello nascosto sotto una pila di materassi è una che non si sottomette. Alla fine, anche se scelta dal principe, preferirà lasciare il castello e andar via con le amiche, felice, libera e single. Una rivoluzione rispetto alle varie Belle Addormentate, Biancaneve e Cenerentola. Le figure femminili, scriveva nel 73 Elena Giannini-Belotin, dalla parte delle bambine, sono sempre passive e inette, senza scopi e senza ideali, tranne quello di catturarsi un uomo che le faccia felici per tutta la vita. Nel cambio di finale di questa nuova principessa sul pisello non c'è però un femminismo esasperato, come ci spiega l'autrice. Non è un rifiuto del principe in quanto tale, un rifiuto di quel tipo di situazione e anche il senso di un sé abbastanza forte, la capacità appunto di scegliere e sulla base anche dei propri desideri e delle condizioni che si riconosce possano essere permettere la propria realizzazione. Del resto lo stesso Andersen, se fosse vissuto ai giorni nostri, avrebbe scelto un altro finale, perché le favole sono nate per spiegare ai bambini la realtà. C'è questa remora grandissima che secondo me è del tutto ingiustificata, perché è un modo per renderle contemporanee è proprio quello di rivederle. In più è vero che le fiabe sono state trascritte, quindi come trasmissione orale in realtà si è cristallizzata, ma avrebbero dovuto per loro proprio costituzione aggiornarsi, adattarsi continuamente ai tempi, perché questa era la caratteristica della fiaba. Sogno realtà. Alessandra Tedesco, GR24, Il Sole 24 Ore.